Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli, essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Oggi Gesù continua la relazione con Simone. Ieri abbiamo visto come Gesù era entrato nella casa di Simone e aveva guarito la suocera. E oggi invece vediamo che Gesù si siede a insegnare alle folle proprio dalla barca di Simone, perché quella era come il suo microfono, no? Il podio da dove potersi far vedere dalla gente e potersi fare ascoltare. E poi che cosa dice a Simone? Dice prendi il largo e getta le reti per la pesca. E Simone però dice, ma maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però sulla tua parola getterò le reti. Memore del miracolo della guarigione della propria suocera, come fa a dire di no a Gesù? È ovvio, lui crede fermamente che se Gesù gli ha detto quello, sicuramente questa volta prenderà dei pesci, ma non si immaginava di prendere tutti quei pesci. E qual è la sua reazione? Perché innanzitutto i pescatori sanno molto bene che di giorno non è che si pesca tutto questo pesce e quindi lui invece riesce a pescare tutta una quantità enorme di pesci e al vedere questo si inginocchia davanti di Gesù e che cosa dice? Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, vedete la mentalità che abbiamo noi. Noi abbiamo questa mentalità, che quando ci capita qualcosa di buono ci sentiamo che non ce lo meritiamo e ci sentiamo subito, facciamo il confronto un po' con quello che stiamo vivendo e diciamo, ma Signore, ma non vedi che io sono peccatore? Allontanati perché non mi merito tutto questo. Quando invece ci succede qualcosa di cattivo, pensiamo, ah, il Signore mi sta punendo per qualcosa di sbagliato che ho fatto. Ma invece il Signore ci stupisce ogni volta, perché il Signore non ci tratta secondo le nostre colpe, non ci tratta secondo i nostri peccati, il Signore ci stupisce. Che cos'è lo stupore? È una reazione di meraviglia di fronte a qualcosa di inaspettato. Allora, vedete, Simone si meraviglia perché il Signore gli procura tutto questo pesce e pensa di non meritarselo perché è un peccatore. E noi oggi siamo chiamati a stupire gli altri. E come possiamo stupire gli altri? Allo stesso modo come ha fatto Gesù. Cioè, di fronte oggi, di fronte a un'accusa, di fronte a qualcuno che mi tratta parolacce, a qualcuno che alza la voce, a qualcuno che magari è nervoso, ecco, io devo stupirlo. In che modo? Facendo esattamente il contrario di quello che sta facendo lui e di quello che si aspetta. Lo devo spiazzare. Se voi a una persona nervosa rispondete con nervosismo, Vi sarà un'escalation e finirete per ammazzarvi. Se voi a una persona nervosa e agitata che vi accusa rispondete invece con la calma, voi sorprendete enormemente questa persona, la stupirete perché non se la immagina, non se l'aspetta. Ecco, noi oggi vogliamo stupire con il nostro comportamento che è esattamente il contrario di quello che la persona si può aspettare da noi. Non dobbiamo agire in maniera istintiva, perché quello non è agire ma reagire, e dobbiamo invece cercare di scegliere di comportarci non secondo l'istinto, ma secondo la ragione illuminata dalla fede e dall'amore. Buona giornata!